24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. La maggioranza, sai, è come il vento che rischia di finire in miglia vacca. Quando Gotor... Denis Verdini, toscano, 64 anni, sposato con 3 figli. In politica parte repubblicano con Spadolini, prima segni poi e finisce per approdare a Forza Italia. Eletto alla Camera nel 2001, nel listino bloccato gestisce la fusione di Forza Italia con AN, ma poi, dopo la rottura, resta in Forza Italia. Dice Berlusconi dovrebbe coronare la sua carriera con la Presidenza della Repubblica. È il protagonista dell'accordo del Nazareno tra Berlusconi e Renzi, ma dopo la rottura, in un difficile pranzo, gli annuncia il suo addio per insuperabili divergenze politiche, crea il suo gruppo parlamentare, diventa l'uomo chiave per la vittoria di Renzi al Senato con la legge di riforma. È simpatico, toscanaccio, senza peli sulla lingua, con tanti problemi con la giustizia ancora aperti. Era il simbolo degli impresentabili. Adesso, con Lotti, facendo i conti sui voti al Senato, non parla, ma canta così. La maggioranza, sai, è come il vento che rischia di finire in miglia vacca. Quando Gotor si sveglia e poi... si... Ma con Lotti, tra una conta e l'altra dei senatori, scherzate sempre così? No, poi diventano dei miti, però in Toscana noi usiamo quell'ironia e quindi... E quindi fra di voi l'ha usata? Qualche volta. Insomma, mi pare che sfida Berlusconi non solo nel rapporto con Renzi, ma anche come cantante. Mai. Credo che sarebbe la cosa che lo fa arrabbiare di più, no? Berlusconi è un professionista. Come cantante straordinario, è imbattibile. Senta, ma... tra questa politica cantata e quella che condivideva con Spadolini c'è un rapporto? Cantava anche con lui? Ma assolutamente no, ma comunque la politica è sempre la stessa cosa, è importante conoscerla e applicarla a seconda dei momenti. Ma tutto... che cosa ha imparato da Spadolini che le serve in questa stagione politica? Beh, la storia. La storia. Certo. Ecco, Spadolini era un laico, con una profonda consapevolezza però del rapporto che in Italia... la politica ha con il Vaticano, e così anche per lei? Beh, l'Italia è l'Italia, non solo Spadolini, basta parlare di Croce. Certo, vabbè, però così. Parlavo del suo riferimento. È così, anch'io sono laico, ma vivo in questo paese. Ecco, ma Papa Bergoglio sta cambiando la Chiesa profondamente, secondo lei in che direzione? Ma io non sono un grande osservatore di ciò che accade nella Chiesa. Cioè non le interessa? Assolutamente. Niente? Poco. Quindi poco. Non ha un'opinione su questo Papa? Ho un'opinione perché invidio molto quelli che hanno fede, li invidio davvero. E li guardo con attenzione. Ma come leader, come le sembra Papa Bergoglio? Beh, ha un tratto di modernità. Le leadership, come dire, sono quelle che hanno presa. Tratti che ritrova in Renzi. Tratti che ritrovo in tutti i leader. Senta, l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, a proposito dell'accordo del Nazareno, ha detto che sentiva uno stantio odore di massoneria. Sentiva bene? Ha un naso da tartufo. Ah sì, eh? Io non so di che cosa parla, ma questo è un po'. Lo dicono, uno dice di no. No, ma lei ha detto è laico, è anche massone oppure no? Assolutamente Firenze, no. Non avrei nessun problema a dirlo. No, certo, poi a Firenze e Toscana. No, anche perché c'è una storia gloriosa e poi c'è una, come dire, un pettegolezzo e anche distorsioni sulla massoneria. Anche degenerazione. Ma io non avrei problema. Comunque non lo è. Non è massone. No, assolutamente. Ecco, torniamo alla politica. Sentiamo cosa ci ha detto qui a Mix 24 Bersani a proposito di lei. Vedo l'onorevole Verdini, senatore Verdini e compagnia, con gli amici di Cosentino e compagnia, che stanno cercando di entrare nel giardino di casa nostra per fare la coalizione della nazione, il partito. Allora, siccome questo è un delirio trasformista, mi aspetterei che dal Nazareno venisse una parola chiara su questo delirio trasformista, perché non vorrei che si sottovalutasse l'effetto che queste cose hanno sui nostri militanti, i nostri elettori, almeno ma parte di loro. Certo, ecco, l'ha presa male questa violenza di Bersani? Assolutamente no. Ma cos'è? Che non ha capito che con Renzi il PD è cambiato geneticamente? Eh? Ma quello che uno capisce o non capisce non sta a me giudicarlo. No, ma l'impressione da politico? L'impressione è che parli di cose che non conosce e le strumentalizzi come fanno tutti. A me Bersani sta simpatico, per cui non ho niente da dire. Il suo giardino non so che cosa sia, non quindi, mi interessa. Nel giardino di Renzi lei sta a suo agio? No. Non, no, in quello di Renzi, non dico in quello di Bersani. No, io sto molto a mio agio nel mio giardino, nel nostro giardino, quello che stiamo creando. Il giardino degli altri. Cioè a casa sua. Certamente. Lei sta bene a casa sua. Certamente. Senta, però c'è chi dice che lei nel giardino di Renzi in qualche modo ci stava da tanto tempo, molto prima del Nazareno. Quando c'è stata l'elezione di Renzi a sindaco di Firenze, si dice che lei ha aiutato, prima ha scelto Galli che era un candidato debole e poi non l'ha aiutato, è così? Io l'ho già chiarito molte volte, non sta così. Renzi ha vinto la sua gara a sindaco di Firenze con il peggior risultato in assoluto di tutti i suoi predecessori. I numeri sono i numeri e chi non li vuole. Però è Galli che dice che al ballottaggio lei è sparito. Non sta così. Non lei è c'era? Così. Lo certo, sosteneva? Certo che c'era. Ha lottato insieme a lui? Certo. Ed ha ottenuto il 40% che nessuno ha mai ottenuto in città. Quindi, poi quando uno perde, non perde solo la gara, perde anche la testa. Senta, lei comunque oggi in qualche modo è l'ala sinistra di Berlusconi e quella destra di Renzi. Le piace come definizione o no? Beh, sì. Per lui è solo un'ala, speriamo che quest'ala. L'ala sinistra, l'ala destra, insomma, sta, quindi vola bene con queste due ali. Sì, stiamo bilanciando. Ma i suoi voti al Senato sono fondamentali oppure servono a ricompattare il PD, secondo lei? Intanto questi voti al Senato sono sempre stati dati, non solo al Senato, anche alla Camera, con coerenza dall'inizio del patto del Nazareno. Cioè lei dice Berlusconi che ha cambiato. No, io dico che noi non abbiamo cambiato. No, voi non avete cambiato, lui sì. Ognuno può fare. Non abbiamo cambiato. Dire, lui sì. Quando sì, lui ha cambiato. Ovviamente noi siamo coerenti con quello che abbiamo fatto. È chiaro che poi questi voti, a seconda anche, posso dire, dell'ingenuità degli altri, diventano più importanti. Assumono il valore. Io mi meraviglio. A seconda dell'ingenuità degli altri. Sì. La sinistra del PD secondo è ingenua. Me, sì, ha questa caratteristica dell'ingenuità. La vocazione al suicidio. Ma certo, perché loro hanno il segretario del loro partito che fa il presidente del consiglio. Mi pare che sia il vero, grande, unico partito che c'è sempre stato, che ha una cosa di fondo, la discussione e la decisione. Sì, Speranza però dice, quelli come Verdini è meglio perderli che trovarli. Io non parlo di Speranza, vorrei che Speranza non parlasse di me. Io con Speranza... Non gli è simpatico per Speranza? No, ci ho trattato, se l'è dimenticato. No, trattato simpatico è diverso. No, ce l'ho trattato. Ma Bersani è simpatico. Anche Speranza, io non ho antipatia. Sì, va bene, ma l'accordo del Nazareno è saltato per colpa di Renzi o di Berlusconi? L'accordo del Nazareno è saltato per mancanza di convincimento. Tutto ma là. La colpa di chi dei due? Quando le cose si usurano è come la tela, poi si strappa. Colpa di tutti e due, quindi? Io penso che non sia colpa di nessuno, è colpa del fatto... Da solo non so. No, è colpa del fatto che nel centrodestra non si è capito che cos'era. E quindi di Berlusconi. Non solo di Berlusconi, lei avrà sentito tante voci nel centrodestra levarsi. Vabbè, ma comanda lui. Questo. Ma insomma, allora è vero. Comandi Berlusconi, non c'è discussione. Ecco, ma è vero che la sera c'era l'accordo su Giuliano Amato, la mattina Renzi invece da solo ha scelto Mattarella. No? Ma è vero o no? No, è tutta un'evoluzione. Non è vero, non è andata così. No. Ma chi è più affidabile, secondo lei, tra Renzi e Berlusconi? A seconda di che cosa si parla. Io ritengo affidabile. Che Berlusconi... Sì. Vuol dire una cosa e farla. L'affidabilità di Berlusconi l'ha dimostrata nel tempo, cambiando la politica italiana. L'affidabilità di Renzi, ancora è tutta da verificare, io la vedo, però è tutta da dimostrare. Ma si assomigliano? Per certi versi sì, hanno le caratteristiche dei leader. Ma chi dice che Renzi è un Berlusconi di sinistra ha ragione o non ha capito nulla? Ma io penso che non abbia capito niente. È la sinistra che è cambiata, la sociologia cioè che il si è DNA modificato. Del PD è quello che non vuole... Il DNA della gente. Della gente. Degli italiani. Sì. perché votano gli italiani, certo, non è che certo, vanno. Vabbè, qui è per adesso il Presidente del Consiglio, non sono ancora stati votati, è il terzo che non è votato. Anche è qui, vero, anche qui c'è una discussione. Ha preso i voti alle europee, ma non ha preso voti sulle elezioni, anche questo è un dato. È un dato, è un dato. Senta, una cosa però colpisce di questo suo abbandono di Berlusconi. Con Fini, Fitto e Alfano, Berlusconi è stato sprezzante, con lei neanche una parola, perché? Non lo so, io ho grande stima del presidente Berlusconi, ogni volta che posso lo ribadisco, abbiamo diversità d'opinioni e che sono maturate. Però c'è chi pensa a un vostro accordo sotterraneo, si sbaglia, è la dietrologia della politica. È sempre così, è sempre così, dietrologia sempre. Purtroppo è stata una rottura politica, vera, politica e non personale. Non umana. Mm. Ma lei crede veramente che Berlusconi voglia la caduta di Renzi, del governo Renzi? Ci crede sinceramente? Io penso di no. Io penso di no, anche perché in questo momento il centrodestra va riorganizzato e quindi il tempo aiuta anche lui. E quindi non lo vuole. Quindi lei penso in fondo è funzionale a questo rinnovamento del centrodestra. È una conseguenza logica e politica. È una conseguenza logica. Senta, ma abbiamo detto, i suoi voti al Senato sono fondamentali per l'ingenuità della sinistra. Ma solo per la riforma oppure anche per la fiducia? Beh, la decisione che abbiamo assunto, che è stata forte, prevede al momento il voto sulla riforma. Stare all'opposizione, non andare al governo, ma stimolare questo governo, che ricordo anche agli amici del PD, non ha una maggioranza al Senato, perché sono 113. Quindi lei è fondamentale? No, non fondamentale, siamo uno stimolo. Aiutiamo ciò che riteniamo giusto. Insomma, è entrato in maggioranza o no? Assolutamente. Voto dopo voto, diciamo. Assolutamente no. Le unioni civili ne voterebbe? Entrare in maggioranza, entrare in maggioranza significa contrattare, avere posti, cosa che i pettegoli dicono, ma che non è così. Senta, ma chi dice che con lei il PD perde il 7-8%, cosa risponde? Ma il PD come non ha nulla a che spartire, quindi non può perdere il 7%, punto. Semmai è una valutazione di quello che facciamo noi, che può essere garbata o meno, ma non abbiamo a che spartire col PD. Senta, ma Renzi ha detto Verdini non è il mostro di Loch Ness. Ma le sembra un complimento? No, non lo so che cos'è. Ma però insomma, va preso. Non ha detto non è un santo, ha detto non è il mostro di Loch Ness. Però io l'ho già detta questa cosa. Siccome il mostro non di Loch Ness non esiste, non esiste neanche il mostro Verdini. Ah, quindi non è affidabile. Renzi dice cose che non sono vere. No, è la leggenda. Il mostro di Loch Ness è una leggenda, certo. E quindi è una leggenda anche. Senta, il mostro ma chi è Renzi? Beh, insomma, il giudizio lo hanno dato gli italiani, non l'ho dato io, l'hanno dato gli italiani. No, ma io chiedo a lei che ci tratta continuamente. No, non, anche questo è una... Tratta con Lotti, neanche. Ho trattato a lungo con Renzi con Lotti durante il patto di Mazzarino, appunto. Questa è la verità. Allora, mi dice una qualità principale di Renzi, secondo lei? Beh, se è molto preparato, è simpatico, è empatico, punto. Ed ha le caratteristiche che hanno i leader. È il suo difetto? Ma non lo conosco così bene. Vabbè, un difetto l'avrà visto, mamma mia, sembra un democristiano di lungo corso. C'ha un neo, è quello il suo difetto. C'ha un neo. Mamma mia. E di Berlusconi? Pregio e difetto? Berlusconi è un unico. Pregi e difetti si mescolano in una sintesi. È un uomo straordinario, nel senso che fuori dall'ordinarietà. E dare giudizi vanno dati a tutto tondo. È stato il grande innovatore della politica italiana, ha cambiato questo paese anche nei gusti e nelle abitudini. Credo e che le ha cambiate in bene, secondo lei? Secondo meglio? Me nella modernità. Nella modernità ci sta il bene e ci sta il male. È l'evoluzione poi, i tempi che modificano eventualmente anche i difetti. Senta Verdini, ma per tanto tempo, quando era l'uomo forte di Berlusconi, i giornali l'hanno massacrata. Adesso un po' più rispetto, non di tutti, ma quasi. Come se lo spiega? Ma io ancora non lo vedo, ma insomma, non lo vede, ma se un me lo dice lei che è un osservatore, le credo. Non mi pare. Non le fa ancora effetto non essere più considerato un impresentabile? Non mi fa effetto. cioè io ho una valutazione di me stesso e sono in pace con me stesso, quindi sai, gli altri ecco, a proposito di pace con se stesso, resta il fatto che i suoi guai giudiziari sono molti. Me li elenca? Sono cinque. Cinque? Sono cinque, forse ne arriverà un sesto. Come li valuta? Stessa, io li ho già scontati, li ho già detto, perché li ho scontati perché la situazione mediatico-giudiziaria è terribile. Invece penso che in tribunale sia il luogo giusto dove farsi ragione, dove si può fare anche le difese. Meno impegnativo il tribunale della gogna mediatica e dell'opinione. Ma lei ha fiducia nella giustizia italiana? Io ho fiducia di farmi ragione perché, come le dicevo, sono tranquillo. Senta, ma a favore, lei è a favore o no del bavaglio alla pubblicazione delle intercettazioni, per esempio? Guardi, per quello che mi è successo a me, che sulle intercettazioni, che hanno messo in mezzo moglie, figli, cioè, mi sembra sbagliato. Quindi è favorevole al bavaglio? Le usino come gli pare, ma, insomma, non una cosa la dica. Uno tre processi li può avere. Lo fa in tribunale, è tutto sui giornali dalla mattina alla sera, mi sembra sbagliato. Ma Berlusconi è stato o no vittima delle toghe rosse? No, Berlusconi è stato vittima di una particolare attenzione, perché è indubitabile che con il numero di processi che ha avuto è stato guardato. Ma secondo lei esistono le toghe rosse che fanno politica più che giustizia oppure no? Io penso che sia sbagliata l'ordinamento giudiziario, che vada fatta una riforma profonda della giustizia. Che lei voterebbe? Sì, per non permettere a nessuno di abusare. Sì, ma le toghe rosse ci sono state nel frattempo? C'è stato una... Mi fa un esempio? Ma no, io esempi precisi non lo so, io mi rifaccio a una lettura sul, quando hanno fondato Democratico, come si chiama? La corrente. Se legge quel documento è allucinante, punto. Dovrebbe essere allucinante per tutti, non solo per me. Punto. Lei a luglio l'ha già un po' detto, diceva che Berlusconi è il più grande innovatore della politica italiana. Non c'è dubbio. Ecco, ma quando ha cambiato idea? Non ho cambiato idea. Cambiano i tempi. Adesso non bisogna più innovarla. No, dura più la vernice delle idee. Non so se lei ha visto sui muri, c'è ancora scritto roba di 40 anni fa. Questo è il punto. Si è aggiornato, diciamo. No. Berlusconi non si è aggiornato. Ma ha ancora un ruolo oggi, secondo lei? Come no? Come no? Ce l'ha. Lei dice di se stesso: sono un taxi che trasporta chi vuole da Berlusconi a Renzi. Poi dice che non l'ha detto, ma insomma è così semplice trasportarli? No, mai detto, e non è semplice proprio niente. Non è una situazione... insomma, la gente matura, matura i propri convincimenti, io parlo e quindi... Senta, ma... Spiego quello che... Spiega, quindi quello è il taxi. Ma una corsa sul suo taxi quanto costa? Già con questo fatto delle compravendite è difficile parlare, che è una stupidaggine grande come una casa, ma è sempre uno strumento di negatività. Il taxi, allora, che non esiste, ho già detto che potrebbe essere un treno, un traghetto o qualcosa di più. Vabbè, o qualcosa di più. Qualcosa di più, cioè, è un'opinione che monta. Molti nell'NCD si aggrappano a lei, questa opinione che monta, come un'ancora di salvezza. E la sua rivincita su Alfano? Ma assolutamente no. Però è vero che lei una volta a casa di Berlusconi ha preso Alfano per il collo e l'ha buttato fuori casa? No, assolutamente. Non è vero? Assolutamente no. No? Assolutamente no. Ma l'hanno detto in tanti, Ma dicono bugie. Bugia, è una bugia. Assolutamente. Un'invenzione. Un fratello Alfano? No. No, ma però abbiamo sempre avuto opinioni diverse sul partito, sulle questioni, ma è vero che dall'NCD vengono da lei? Nel centro c'è un grande movimento. Se uno gira per Roma se ne accorge. Nel centro c'è un grande movimento, c'è anche un grande interrogativo: che fare? Io penso che si possa fare grandi cose al centro, senza andare nel giardino dei vicini e dei PD. Quindi costruendo il suo giardino, stando nel suo giardino. Ecco, ma si dice che lei... Non c'è da costruire il giardino c'è già, dobbiamo ordinarlo. Ecco, a proposito di ordinare il giardino, si dice che lei vorrebbe impadronirsi della sigla Scelta Civica, in qualche modo per completare la definizione di questo giardino, è vero? Ma non è vero, è vero che Scelta Civica, come altri partiti e movimenti, si muovono tutti nell'ambito della stessa area di riferimento, questo popolo cosiddetto dei moderati, questa... quello che noi sappiamo essere il centro del paese, e quindi la Democrazia Cristiana, insomma quell'ambito lì, quel popolo lì. Io penso che sia un'altra cosa. Io penso, certo, che sia la gente, di buon senso. Gente, punto, di buon senso. Esatto. Perché quelli della Democrazia Cristiana erano di cattivo senso? No. Erano dei fenomeni sotto questo aspetto. Tenevano insieme ciò che non stava. Li aiutava al muro di Berlino, forse. C'era in qualche anche, modo. Però tanto di cappello. Sì. Senta, quindi non si vuole impadronire di Scelta Civica, della sigla. No. Non può aiutarlo a costruire il suo giardino. Io penso che sia il momento di disgregare, abbassare gli steccati e poi riunire tutto quello che c'è nel centro per proporsi con grande serenità a una vasta area politica. Tentativo fatto tantissime volte, sempre fallito. Quindi vedi, c'ho anche la consapevolezza che può andare e non andare, però c'ha la certezza che i suoi voti al Senato sono indispensabili. Quello l'aiuta a costruire, no? Immagino. È là. Insomma, nel momento giusto ha fatto la cosa giusta, diciamo. Parla di se stesso, qualche lode se la fa. Senta, Verdini, ma quindi questo grande partito riformista dei moderati di buon senso che lei sogna era quello che sognava Berlusconi? Certamente. Insomma, certamente. Adesso si chiama Partito della Nazione, ma il leader è Renzi. Semplifichiamo. Più o meno è così? Non è così, perché non c'è il Partito della Nazione. Ah, sarà neanche questo raggruppamento, non c'è ancora così definito. No, c'è un'idea. Per chiarezza, Renzi è un leader che guida la sinistra. Sì, in maniera diversa da ciò che è sempre accaduto. Non è becero, non è anti-berlusconiano nel senso largo della parola, ontologico. Non ha questa visione ideologica della vita, è molto pragmatico. Cioè non è contro, ma è per. Ha molti elementi del liberalismo al quale noi facciamo riferimento. Non è il nostro leader, ma guardiamo con attenzione, perché solo è il vostro alleato. Solo i leader cambiano la storia del paese. Certo. E lui è uno di quelli che la cambia. E lui può essere uno di quelli che la cambia. Adesso lei dice, l'ha detto, se si vuole rifondare il centrodestra, in fondo lo sta dicendo dall'inizio dell'intervista, bisogna affidarla a un leader non compromesso con il ventennio di Arcore. E ha detto: mi vengono in mente Casini e Rutelli con 20 anni di meno. Anche questo non l'ho detto. Ho detto che addirittura se lo sono inventato. Ma io che devo dire? Non l'ha detto, quello che penso è la parte prima del ragionamento, che occorre qualcosa di nuovo. Noi possiamo contribuire, creare, far d'accordo, crescere, perché abbiamo una certa esperienza. Ma quindi questi due esempi sono sbagliati, secondo me? Di 20 anni fa. No, ha detto con 20 anni di meno. Quindi, di 20 anni fa. Di 20 anni. Marchini? Marchini non ha questa età. Che li ha 20 anni in meno, potrebbe andare. 20 anni in meno di chi? di molti. In meno di chi? Ne ha 50, insomma, sta là in mezzo. Potrebbe esserlo, io non lo conosco, quindi direi una stupidaggine. Non ci ha mai pensato. No, direi una stupidaggine. Senta, lei... Io ero un esempio di caratterizzazione, nel senso che occorre una tipologia. Senta, Verdini, lei ha sempre esercitato molto potere, glielo riconoscono tutti, dietro le quinte però, in silenzio. Adesso ha deciso di parlare e fa rumore quando parla. Perché ha deciso? No, ho deciso di parlare perché stavano raffigurando questa nostra impostazione in maniera non corretta. Io penso che abbia una grande dignità politica, che abbia un grande spazio politico, che sia necessario al paese, e quindi uno lo deve cercare di spiegarlo. Ma dato che dovrà avere un nome, poi perché non le piace Scelta Civica? No, perché chi l'ha detto? Non può essere un approdo. Sai, io sono fiorentino, i nomi e le parole. Ci gioca. È il concetto che va bene. Senta, le faccio un'ultima domanda. Mi hanno detto, non so se è vero, perché dicono tutte cose che non sono vere, hanno detto che lei si è tagliato i baffi per piacere a Berlusconi. No, io sono tagliato i baffi perché mia figlia, piccolissima, siccome erano imbiancati, mi ha detto che sembravo quello del panettone, insomma non le piaceva. Non gli piaceva. E quindi mi ha convinto, l'ho portato tutta la vita, ma ha convinto lei a fare. E Berlusconi non c'entra? No. Non gli ha detto mai niente? No, mai niente. Mamma mia. E adesso quindi se li lascia così per l'amore di sua figlia? Ormai mi sono abituato. Senta, perché ci sono dei rassoli straordinari. È che ormai tagliano tutto. Senta, le faccio un regalo finale io di una canzone prima di finire. Rose rosse per te. questo si è riconosciuto, no? Era sì. lei con Fiorello, sì, non sì, Fiorello sì. da solo, sì, sì. era anche lei, ma Rose Rosse perché? Boh, è un auspicio, è un auspicio. Insomma, chi le regala ste rose rosse? A mia moglie. Va bene, grazie. Pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che titolo fai a Faccia a Faccia di Verdini? Giardinaggi nel centrodestra. E tu, Mario? Un titolo, che è la cosa. Sì, però. Sì, sì, però. Però. Bene, era il titolo di, una, di un programma che ho fatto nell'84. Ma dai. Va bene. Lo sapevo. Canzone di Pietrangelo. Allora Pietrangelo, stamattina a volte o sempre o a volte per sempre, quindi tornare, trovarsi, perdersi e ritrovarsi. Allora, non è colpa mia, ma è diventato questo uno spazio per le dediche, perché io arrivo al mattino e al centralino chiamano per fare le richieste. Sarà pure una catena di parole, di sentimenti, non lo so, non lo so. Comunque stamattina ha telefonato Richard Burton e ha dedicato a volte o sempre o non so cosa a Liz Taylor con un messaggio: per sempre ti ho dato quello che avevo e tu me l'hai rispedito al mittente. Il messaggio è enigmatico e mi ricorda quella celebre poesia siciliana diventata canzone: l'amore che me daste te lo torno. La dedica è tremenda, eh? Ma l'amore poi che a me daste te lo ritorno. È bruttissimo, durissima, vabbè, senti, no, quando ti capita a te è orrendo. A me, no, lasciamo a te, è persona stare. Umana. Lascia stare. Vabbè, senti, è la tua bolla cattiva, Mario, vediamo come riesci a essere cattivo. Bill Conti, quanto ci carica. Allora, Verdini ha detto una cosa interessante durante, più di una veramente, durante la tua intervista, ha detto: sai, i tempi cambiano, le idee. Allora, i tempi cambiano ed è, secondo me, la storia dell'acquisto da parte di Mondadori di RCS è molto rivelatrice di un tic antico che non riesce più però a farsi nuovo, cioè quello dell'antiberlusconismo pregiudizievole, militante e così via. Allora, oggi la spalla di Repubblica metteva in bella mostra un'intervista a Roberto Calasso, che è il grande fondatore della casa editrice sì. Delphi, che in quell'accordo, diciamo, non c'è stato, lui se l'è ricomprata. Vabbè, lui si è ritenuta la sua. Ed era un suo diritto. Allora, l'intervistatore gli chiede: insomma, ma si può parlare della sua operazione come un'operazione di libertà? Sentite la risposta di Calasso. Mi pare una parola eccessiva. Non mi sembra che la situazione rispetto a prima sia cambiata. Quindi già no, manca la domanda. Però l'intervistatore insiste: in che senso? E lui, secondo me, dà una risposta fantastica. Continuerò a fare esattamente quello che ho fatto da più di 40 anni. Trovare certi libri, pubblicarli in un certo modo, ben distinguibile, pensando alle copertine, alla carta, ai caratteri, alla lingua e calcolando bene le tirature. Quindi? Quindi non è una questione di libertà, non è una questione di antiberlusconismo, non è una questione insomma, del cavaliere cattiva. Gliela dà il mercato. Esatto, dai, è una questione di cultura e di business che si fa con la cultura. Vabbè, quindi la cattiveria dov'è? La cattiveria è che tutte le idee che sono state sfornate per 20 anni sono certificate da queste parole di Calasso, sono morte. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms. Salamino. buone notizie, sempre buonissime notizie in questa italissima musica. Nostra storia usando biciclette. Allora, che il Giro d'Italia 2016 non passi dalla Sicilia ma dall'Olanda, sì, confesso, scriveva stamattina in un tweet Carlo Ottaviano. Beh, fa riflettere. Passa dall'Olanda e dalla Sicilia no, perché si parla da Apeldoorn venerdì 6 maggio. E così appunto si legge sulle cartine pubblicate, e però dice perché non dalla Sicilia? Dalla Olanda va direttamente a Catanzaro. E perché non dalla Sicilia? Si può capire, e io l'ho capito perché. Siamo rimasti in tre somari e tre briganti sulla... Si può capire perché? Perché persi furono gli asini e ora si va disperati a cercare le bisacce. Sette mesi fa, davanti al crollo del pilone, nel viadotto Imera, dove? Sull'autostrada Catania-Palermo, 7 mesi fa. Davanti alla Sicilia spaccata in due, Graziano Del Rio, ministro alle infrastrutture, disse. Cosa disse? Abbiamo visto una situazione molto seria, molto grave. Questa è un'arteria decisiva per la Sicilia, quindi dobbiamo trovare una soluzione seria il prima possibile. Disse, senza tema di smentita, 7 mesi fa, che in 3 mesi avrebbero fatto una bretella. I 3 mesi sono più che cominciati, anzi non sono neppure finiti, perché 3 mesi fa, insomma, è tutta un'aritmetica complicata della famosa solitudine dei numeri gufi renziani. Comunque, ancora una volta, che succede? Siamo rimasti in tre somari e... Succede che persi furono gli asini e ora si va cercando le bisacce, e le soluzioni sono arrivate, perché comunque i siciliani si industriano, e c'è stata una consultazione con degli esperti nipponici. Il perone danneggiato è stato visionato da un pool di esperti nipponici guidato dall'ingegnere Ma cosa cazzo fate? Insieme al professor Akura Kakare. Dopo una riunione ristretta ha dato il suo parere sulla tenuta del ponte il prof Mamanko Kamoto, mentre che Giro Cafate ha studiato possibili soluzioni alternative. Si attendono con ansia le conclusioni del vertice affidato all'ingegnere Cazzesci dalla casa. Guai, non bastavano le due Sicilie, caro Giovanni. Il governo Renzi, con il suo complice Crocetto, ne vuole tre. Ed ecco che la povera Sicilia si ritrova spezzata in tre, perché una frana dalla collina di Letojanni alle porte di Taormina ha bloccato anche l'autostrada Messina-Catania. Insomma, 5 milioni di siciliani sono intrappolati. La situazione è bellissima, perché nel governo d'Italia con Matteo Renzi, anche Verdini lo può confermare, tutto è perfetto. Praticamente in Sicilia gli aeroporti sono lotterie, il Giro d'Italia è in Olanda, e se in 3 mesi Del Rio non ha fatto quello che non ha fatto in 7 mesi, insomma, quanti asini, quanti ciuchi, quanti scecchi si dovranno perdere ancora per trovare le strade? Sempre un unico canto. Beh, però Pietrangelo, una notizia te la do io. Da Palermo a Catania in treno ci volevano 4 ore e mezza. Il giorno dopo il crollo dell'autostrada, il treno da Palermo a Catania, su quelle rotaie, con quella locomotiva, con quei vagoni, ci ha messo 2 ore e mezza. Quindi, ora... poteva metterci 2 ore e mezza sempre, ce ne metteva 4 e mezza. Perché? Questa è la domanda. È la bella domanda. Perché, te lo dico a te che sei di Torino, perché c'è sempre stata questa politica di... Favorire gli autobus, le ruote, insomma, le gomme, le strade, le gomme. Il trasporto gommato. Ai tempi della buonanima i treni venivano in orario. Bolla! Vai. Allora, questo è Bob Sinclair, Field Vibe. E, insomma, sì, bisogna sentirle un po' le vibrazioni, perché in realtà noi abbiamo un mese di ottobre che a Roma è placido solitamente, l'ottobrata romana, ma a Bruxelles sarà piuttosto agitato, perché è in corso una battaglia sul copyright, sulle concentrazioni, sulle tasse delle multinazionali, in vari ambiti, in varie commissioni. In particolare gli editori europei continuano la loro battaglia contro Google, eccetera. Il capolista di tutta questa, il capofila di tutta questa operazione, Axel Springer, vediamo cosa farà. In realtà, cosa può fare? Ma insomma, mica tanto, perché sai, molti commissari sono convinti che in realtà l'innovazione digitale, e hanno anche ragione, per me almeno, non può essere guidata da editori che fanno un business vecchio. Certo, loro devono pagare le tasse, loro, però. Certo, non ci sono dubbi. No, perché per adesso non le pagano. A fine ottobre ci sarà un'accelerazione. Ricordo che Axel Springer, giusto per fare per dare un senso alle cose, fu quello che decise di uscire dal motore di ricerca di Google, cioè dal search box vero e proprio, e poi pregò di rientrarvi perché le sue classifiche delle visite erano crollate. Quindi secondo me ci vuole un sano realismo, e ci saranno cronache molto importanti nei prossimi giorni su questo punto. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Che cosa succede? È arrivata una nave carica di ebrei per i campi. Quali campi? I campi di internamento di Karaulos. Vede, gli ebrei noleggiano una nave in Europa per andare in Palestina. Poi gli inglesi fermano la nave e li mandano tutti qui. Gli arabi non li vogliono in Palestina. E per quanto ne so io, gli inglesi non li vogliono qui. Però ce li tengono. È il film Exodus, ispirato a una storia vera. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tra le macerie di un'Europa distrutta e milioni di profughi che cercano una patria, più di 4.000 ebrei si imbarcano clandestinamente su una nave diretta in Palestina, e sarà l'inizio di un viaggio disperato. Allora, Moni Ovadia, quella di Exodus è uno scenario attuale? Assolutamente sì, mutatis mutandis sono riprodotte le stesse condizioni, cioè gente che cerca vita, scappa dopo un'immane catastrofe e viene respinta. Viene respinta. Ecco, ma perché la Marina Britannica blocca la nave Exodus? Perché pensano solo ai loro interessi. I britannici in quel momento pensano alle loro alleanze con gli arabi. Infatti, quando ci sarà poi la guerra arabo-israeliana del 48, gli inglesi armano la legione araba. Ma il silenzio di chi sapeva, dei tanti ebrei che erano a conoscenza del genocidio, con Exodus si trasforma in aggressione. Perché? Sempre per questa ragione? Ma secondo me chi sa e non parla c'è sempre da tutte le parti, quindi non, in questo senso diciamo autorità ebraiche non fanno l'eccezione, l'establishment sempre ha. Io non so precisamente chi tacque e chi parlò, ma si tace sempre per interessi, per opportunismo, per paura. L'attacco dell'Exodus all'Exodus è come la costruzione dei muri di oggi? Secondo me sul piano etico e anche sul piano pratico non c'è differenza, solo che questa volta gli ebrei di Israele stanno dalla parte di quelli che alzano i muri. La vera storia dei profughi ebrei, misteri e drammi sulla nave Exodus, qui a Mix 24 dopo il giornale radio. Mix 24. Ricordo che noi leggiamo volentieri le SMS, ma se sono firmati ne riceviamo molti, anche di insulti, qualcuno di complimento, ma quasi mai firmati, e allora non li leggiamo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, il canzoniere. Potete voi, per via indiretta, trargli di bocca la causa di quello stentato vaneggiare che gli strugge la pace dei suoi giorni in una così pericolosa e turbolenta pazzia. È sconvolto, ma non vuol dire la ragione a nessun costo. È un pazzo furbo, svicola sempre. Forza, questo è facile, 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, chi vuole vincere? Un libro, Mario, un'ultima bolla? Sì, al volo. Adesso un bel pezzo, bravi, bravi, bravi in regia. Stamattina abbiamo scelto musica, musica da ballare. Te lo dici da solo, eh? Sì, sono bravi in regia. Scusa, no, brava la regia, ho detto. Ah, la regia, no, okay. Non c'è problema. Senza indicazioni, vai. No, ma solo stamattina il Corriere della Sera ha pubblicato una notizia importante, cioè che i Tornado saranno armati e dunque bombarderanno in Iraq. Naturalmente, come al solito in Italia, si va un passo avanti e due indietro. Adesso la difesa dice che in merito a indiscrezioni di stampa, bla bla bla bla bla bla, dice quella dei bombardamenti è un'ipotesi da valutare e soprattutto bisogna passare in Parlamento. E quindi, secondo me, arriveremo a fare un po' di dibattito politico anche su questo. Tieni presente che... Insomma, secondo te bombardano o no? Tu che te ne intendi, che sei, come dire, insider. L'hanno già difesa. L'hanno già deciso. Si bombarda. Certo, l'hanno già deciso. Poi, adesso, siccome ci saranno complicazioni politiche... Ma bombardare non vuol dire guerra, eh? Sì. Ma la guerra non ci vuole una decisione del Parlamento? Sì, una... ci sono parecchi precedenti però di gente che l'ha fatto senza chiedere permesso. Kosovo, tanto per dirne uno. Chi governava, te lo ricordi? D'Alema. Bravo. Si può fare solo quando c'è al governo la sinistra. E quindi... Perché se c'è la sinistra può bombardare. Ok. Comunque, la sinistra, che può fare. Ma comunque un passaggio parlamentare poi si fa, è evidente, dai. Ma secondo te cominciano subito? Hanno già cominciato? Beh, cominciano subito perché l'impegno della Russia nel teatro siriano ha cambiato tutto. Beh, completamente, ha preso lei in mano la guida della situazione. Quindi è vero che noi non interverremo in Siria per ora almeno e bombarderemo in Iraq molto probabilmente, però la realtà è che Mosca ha cambiato le regole del gioco. Certo. Tutti si devono impegnare di più, no? Per rincorrere. E noi intanto, in attesa di affrontare di nuovo questo problema, perché è un tema che sarà all'ordine del giorno per i prossimi mesi sicuramente, con il professor Roberto Bernabei commenta lui le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine del 3 ottobre 2015. Emergenze mediche durante i viaggi aerei. Professore, cosa ci insegna questa notizia? Ma intanto credo sia interessante per tutti quelli che hanno paura di viaggiare in aereo, non solo per quello che è l'aereo, ma perché le turbulenze e quant'altro, ma perché in aereo può succedere qualche cosa rispetto alla nostra salute. Allora, alcune cose. Su 604 voli, un volo presenta un'emergenza medica. Come risponde lo staff dell'aereo? Intanto con una cassetta di pronto intervento dove c'è un fonendoscopio, i guanti, l'apparecchio per la pressione, una maschera per aiutare a respirare, un po' di siringhe, una flebo con acqua e sale, un po' di broncodilatatori perché è uno dei problemi come vedremo, un po' di farmaci tra cui la nitroglicerina per gli attacchi di cuore e la lidocaina per le aritmie e un defibrillatore. Però è evidente che non è che ci sono capitani medici o hostess infermieri. Cosa succede? Succede che gli aerei sono regolarmente collegati con dei servizi di terra che sono capaci 24 ore su 24 di rispondere al problema dell'emergenza e a dare una soluzione. Intanto, quali sono i problemi più frequenti? Traumi. La gente sbatte, si rompe, ha fratture, ha arresti cardiaci, ha ictus, ha ipoglicemie. Su queste cose decide il capitano, decide se avere un atterraggio forzato oppure affidarsi a quei servizi di consulenza che danno le indicazioni a chi è che abbia avuto un problema. Quindi insomma c'è una sorta di modesta rete di protezione, ma esiste anche se siete in volo e siete in mezzo all'oceano. E quindi siamo tranquilli in aereo? Siamo relativamente tranquilli. Ma non siamo soli, non siamo definitivamente soli.